Voglio che vi rendiate conto di tutti I suoni che provengono dall'esterno della stanza. Now everybody knows that your father, when he likes somebody, he invites them out on a little fishing trip. In fact, I've never been invited fishing. Not once. You hate fishing. He doesn't know that. È iniziata con gli Elk City, la seconda parte del volume numero 4 di Eclettica della settimana. Tutti i giorni, fra le 19 e le 20, sulle frequenze di Rock FM, in compagnia di Giulio Capperdoni, raggiungibile all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. Una nuova prova per gli Elk City, vi dicevo, che segue due prove, una del 2001 e del 2002 per Touch and Go, questa invece per Friendly Fire Recordings, dal titolo New Believers, e il brano che ci siamo ascoltati all'interno di Eclettica era Cherries in the Snow. Ora direi che è arrivata la volta di ridare spazio a Saul Seppi, è vero, ve l'ho già fatto ascoltare un sacco di volte, però non riesco a farne a meno. Jenny ha detto che quando aveva appena 5 anni non succedeva mai niente. Ogni volta che metteva su una stazione radio non passavano mai niente, proprio niente. Poi un bel giorno si sintonizzò su una stazione di New York. Sai, non riuscì quasi a credere a ciò che stava ascoltando. Cominciò a muoversi a quella musica favolosa. Sai, la sua vita fu salvata dal rock and roll. Nonostante tutte le amputazioni, potresti lo stesso uscire e ballare con una stazione di rock and roll. Ed era bello. Ehi, tesoro, sai che era bello. Jenny disse, quando aveva appena 5 anni, «I miei genitori saranno la fine per tutti noi. Due televisori e due Cadillac. Non mi saranno proprio d'aiuto, proprio per niente». Poi, un bel giorno, si sintonizzò su una stazione di New York. Sai, non riuscì quasi a credere a ciò che stava ascoltando. Cominciò a muoversi a quella musica favolosa. Sai, la sua vita fu salvata dal rock and roll. Sì, dal rock and roll. Questa era Rock and Roll di Lou Reed. Would you be offended if Thompson asked you to get a vasectomy? What? Why would he want me to get a vasectomy, Carl? I barely know the man! Wait a minute, wait, the priest! Yes, I'd be offended! Oh, not you. It's not what I mean. Just what do you think of vasectomies? Cutting off my manhood? I think it's barbaric. No one's getting near that part of my body. No one, Carl. Unless, of course, it's a woman. And then she better not have a scalpel. Of course. Why would he want me to get a vasectomy? He doesn't want you to get a vasectomy. It's a hypothetical question. Okay. Just forget I asked. Don't joke with me like that, Go man. Go back to your reading. Things would never change, but sometimes they get rearranged. Giulio Caperdoni in Eclettica, in cui vi siete appena ascoltati The Pigeon Detectives con quello che è il loro ultimo singolo I'm Not Sorry, con cui hanno scalato le classifiche inglesi. Prima ancora invece l'omaggio dei Tomahawk di Mike Patton alla musica dei nativi americani. Hanno ripreso e rielaborato dei tradizionali, soprattutto delle tribù Hopi. Ed Eclettica, che prosegue avvicinandosi alla sua conclusione del volume numero 4 della settimana con i Cinematic Orchestra. Seeds. There is a branches were soaring by the color of green. The ground had a rose then past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree to see. When the gods came around to blow me down, held on as tightly as you held on me, held on as tightly as you held on me. Un bel giorno si sintonizzò su una stazione di New York. Sai, non riuscì quasi a credere a ciò che stava ascoltando. Cominciò a muoversi a quella musica favolosa. Sai, la sua vita fu salvata dal rock and roll. Sì, dal rock and roll. A dispetto di tutti i calcoli, potresti comunque ballare al ritmo della radio di rock and roll. E tesoro, era bello. Come ha detto Jenny quando aveva appena 5 anni 5, ehi, sai che non succedeva proprio niente? Niente di niente? Ogni volta che mettevo su una stazione radio, sai, non passavano mai niente. Proprio niente. Poi, un bel giorno, sente una stazione di New York, non riesce quasi a credere a ciò che sente? Proprio no. Cominciò a muoversi a quella musica favolosa. Sai, la sua vita fu salvata dal rock and roll. Sì, rock and roll. A dispetto di tutti i calcoli, potresti comunque ballare al ritmo della radio di rock and roll. Ed era bello. Questa era ancora Rock and Roll di Lou Reed. Oh, Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 40, volume numero 4. Indice: Murder by Death, Jennifer Gentle, Jessica Hope, Kid Weird and the Combos, Emily Haynes and the Soft Skeleton, AU, Elk City, Soul Seppi, Tomahawk, The Pigeon Detectives, The Cinematic Orchestra, Dinosaur Jr. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.